Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Con il mese di aprile, importanti novità, ma anche qualche rogna in più per quanto riguarda le bollette. Luce, gas, ma in generale parliamo anche dei pagamenti, delle novità che riguardano questi fogli, oppure dei file, se ce li facciamo mandare via mail. Cerchiamo di fare chiarezza col presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con il primo aprile, come succede quattro volte all'anno, quindi gennaio, aprile, luglio e ottobre, l'autorità per l'energia e il gas fissa le tariffe. Se ne è parlato tanto anche nei giorni scorsi, dicendo che appunto con aprile entrano in vigore nuove tariffe che faranno risparmiare una cinquantina di euro all'anno. Vado a memoria, ma anche l'anno scorso avevamo parlato delle diminuzioni di prezzi in aprile, ma va detto, Carlo, stiamo andando anche verso l'estate. Ah sì, certo, è chiaro che parlare di riduzioni delle bollette del gas ad aprile, quando praticamente ormai i termo vengono sostanzialmente spenti, salvo imprevedibilità da stagionale, certamente è un po' una beffa quando ci siamo trovati a dover pagare i massimi storici durante tutto l'inverno, quando abbiamo il massimo consumo. Però in quello che è comunque un calcolo complessivo fatto dall'Authority, riferito a quello che è un consumo medio di una famiglia tipo per quanto riguarda il consumo di gas e il consumo di energia elettrica, registriamo comunque che da questo mese abbiamo una diminuzione dell'1,1%, quindi un risparmio di energia elettrica, e di 3,8 sul gas, che complessivamente equivale a 52 euro circa a famiglia, 6 per l'elettricità e 42 per il gas. Questo ovviamente poi in base ai consumi, ma sono prospettive, diciamo, di media. Il gas chiaramente serve meno perché c'è meno riscaldamento, si userà solo per scaldare l'acqua evidentemente e solo per quello. Questa, diciamo, che è una non notizia sostanzialmente, perché poi immagino che anche a luglio ci sarà forse una lieve diminuzione, ma questo poi lo verificheremo, non vorrei fare il profeta sbagliando. Un'altra novità che riguarda le bollette dovrebbe entrare in vigore prossimamente, ed è proprio la forma delle bollette, cioè come ci si presenta. Adesso, insomma, per l'utente medio sono praticamente incomprensibili. Cosa cambierà? Sì, sappiamo benissimo, e questa è anche la posizione dell'Adico, che sostanzialmente le bollette oggi sono veramente incomprensibili. Ci sono dei codici, grosso modo vengono spiegati, si parla di F1, F2, F3 per energia elettrica, che poi in realtà sono riferite alle fasce orarie, ma ci sono anche un sistema macchinoso di gestione del calcolo di quello che è realmente il consumo per metro cubo e per kilowatt. Cosa cambierà? Cambierà che da gennaio 2015 le nuove bollette, che saranno denominate per la fase storica 2.0, dovranno una volta per tutte essere chiaramente interpretabili e leggibili per il consumatore, mettendo in luce sostanzialmente quello che è il reale costo al metro cubo e al kilowatt che ciascuno di noi consuma, perché qui tra offerte, proposte, accise e qualsiasi servizio di dispacciamento, vettoriamento e via dicendo, non si riesce più a capire veramente, come abbiamo anticipato pochi secondi fa, la comprensibilità della bolletta. Ricordiamo anche, Mirko, che sia per quanto riguarda le variazioni di prezzo che le nuove normative, queste vengono riferite per chi comunque opera nell'ambito della tutela del mercato. Poi nell'ambito privato ognuno di noi può accedere a delle qualsiasi genere di promozione e offerta, però sappiamo che, a parte la lettura della bolletta, ma i costi non vengono più regolamentati dall'autority, ma definiti dal privato direttamente. Però è già il fatto che le bollette siano un po' più comprensibili ci farà almeno capire quanto effettivamente paghiamo e per una cosa e per l'altra. Tema bollette non finisce qui perché c'è un altro aspetto, qualcuno se ne sarà già accorto, chi ha il bonifico automatico tramite la banca si chiamava RID, non si chiama più così, si chiama SEPA, che è un sistema di pagamento europeo che però già ha fatto qualche fallo. Là o sbaglio? Altro che, questo sistema sostanzialmente che dovrebbe essere rivolto a tutti i consumatori europei perché la tendenza è quello di unificare un po' lo stesso sistema a tutta la comunità, ma permettere anche che comunque i privati possano competere nel mercato, rende necessario vedere quelli che sono stati degli automatismi di addebito in banca, che ha già cominciato a mietere moltissime vittime, perché oggi si parla di bollette che sono state sostanzialmente o addebitate più di una volta, o persone che hanno denunciato di aver avuto dei rincari su quelle che sono delle commissioni, dei servizi che non hanno richiesto, ma soprattutto poi capita il problema di persone che si trovano avere delle posizioni a perdere con i gestori perché risultano non pagate quando in realtà poi non le hanno mai ricevute o paradossalmente hanno ricevuto gli addebiti senza mai ricevere le bollette. Doveva funzionare che la banca praticamente o chi per noi paga appunto le bollette a fare questo cambio che doveva essere automatico e gratuito, ma in realtà stando a quello che tu dici non è stato così. Non è stato così per molte persone, non diciamo per tutte, ma sicuramente la segnalazione che abbiamo cominciato a ricevere hanno riguardato molti consumatori e certamente questa cosa dovrebbe portarci a una semplificazione, come tutti gli aggiornamenti fatti prima, ma anche a una maggior tutela dei consumatori che ad oggi si trovano sempre rischiati su queste giungle di addebiti, bonifici, bollette che arrivano, che non arrivano, e letture che non sono comprensibili, conguagli, letture stimate rispetto alla lettura effettiva e quant'altro, che veramente mette il consumatore in una condizione sempre di maggior difficoltà rispetto al proprio gestore. Speriamo che tutte queste cose veramente riescano a mettere un po' d'ordine a questa giungla e sinceramente permettere soprattutto a chiunque di poter in qualsiasi momento calcolare quanto sta consumando anche per una previsione di quella che può essere una bolletta e una gestione delle proprie finanze che mese per mese le persone ormai sono sempre più oculate a dover fare. Chi ha dunque il pagamento automatico magari si faccia fare l'estratto conto o lo controlli online, così verifica che tutte le ultime bollette siano state pagate regolarmente, visto che questo sistema di pagamento, il SEPA, è in vigore da alcuni mesi. Dunque tante novità o non novità che riguardano le bollette, tema purtroppo quotidiano per tante persone. Tra un paio di giorni ancora insieme all'Adico di Mestre per un altro argomento. Grazie al presidente Carlo Garofolini e buon proseguimento. Grazie a te amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.